dei 3000 siepi, vediamo che l'andatura è subito molto molto veloce e vediamo che va a prendere la testa, la testa, la testa, la testa, la testa. Vediamo cadere, vediamo cadere, vediamo cadere. Ma si è rimesso in gara? No, no, è ancora là. È ancora a terra. Ma si è rimesso in gara? No, no, è ancora là. È ancora a terra. Vediamo la disperazione, disperazione, disperazione, disperazione. Più agili nel superamento delle siepi, delle barriere, i due inseguitori. Inseguitori, inseguitori. Con questa vittoria sorprendente. Ed ora vediamo la gioia incontenibile. Incontenibile. Rieccoci qua. Una nuova puntata di 3000 siepi, questa volta in versione un po' ridotta perché abbiamo poco tempo e quindi faremo soltanto due delle nostre consuete rubrichette. Sono consuete solo da una volta perché abbiamo fatto una sola puntata, in realtà quella di domenica scorsa. Questa è sempre Wombat Radio, ci potete ascoltare da wombat.onoblogs.org e forse abbiamo anche approntato un sistema intelligente per avere le registrazioni tipo i podcast a fine trasmissione, quindi dovrebbe esserci a breve sul sito il podcast della puntata scorsa, perché siamo lentissimi a fare questa cosa, proprio lenti, lenti, lenti, lenti. E siamo sempre qui, io sono Gino e di fianco a me c'è Gine che è silente. Gine silente vi saluta. E oggi appunto avremo solo due delle nostre rubriche, però una è nuova perché l'abbiamo presentata in chiusura della scorsa puntata. Era quella che abbiamo lasciato nel mistero, dedicata all'astronauta Gagarin, e racconta delle nostre escursioni buffe alla ricerca di sentieri che ricreano dei percorsi storici secondo noi interessanti. E il primo che ci siamo inventati, un po' per comodità, un po' per omaggiare una radio della resistenza fiorentina, è stato quello sulle tracce del Cippo di Radio Cora. Vogliamo raccontare anche come avvengono le nostre escursioni? A piedi, come avvengono? Avvengono a piedi con un registratore. Siamo anche abbastanza inquietanti, probabilmente, da incontrare lungo i sentieri. E quindi noi procediamo per il sentiero e registriamo impressioni e quant'altro, insomma, ci passa per la mente. Poi selezioniamo degli estratti di registrazione e... Sì, le cose più imbarazzanti le censuriamo. Non è vero, in realtà mandiamo solo quelle. Certamente. Per mantenere l'alto audience, è soltanto momenti di imbarazzo mandati. Poi lo vedrete tra un po'. Comunque il primo giro appunto è stato alla ricerca di questo cippo sulle colline fiorentine, dedicato all'episodio dello smantellamento di Radio Cora. Ora, magari prima di introdurvi alla passeggiata, vi raccontiamo anche in poche parole che cos'era Radio Cora e poi anche il percorso che suggeriamo per la passeggiata. Allora, Radio Cora era una radio non come quella che stiamo facendo noi, cioè non era una radio parlata, in realtà era una radio, penso, quasi totalmente radiotelegrafata, e principalmente serviva a mantenere i contatti tra il partito d'azione e diciamo, il coordinamento comunque di forze alleate sul territorio e gli alleati che sbarcavano. Quindi era nel periodo in cui i tedeschi erano in ritirata, ha coperto probabilmente, mi sembra, è stata attiva più che altro nel 1944, quindi. Era in realtà un progetto, Radio Cora stava per coordinamento radio, credo, non era un nome a caso, era un acronimo ed era questo, diciamo, questo gruppo appunto facente capo al Partito d'Azione che aveva, era, ho sbagliato, mi dico già subito, ho sbagliato clamorosamente. Commissione radio. Commissione radio, ecco, sì, coordinamento in effetti sembra più una roba da centro sociale, scusa, cioè era il retaggio. E, comunque questi, diciamo, queste radio erano attive anche a Milano e a Bari, anche se in queste due città hanno operato molto poco. A Firenze invece operò per circa 6 mesi, spostandosi un po' in vari luoghi del territorio fiorentino, perché era una radio comunque clandestina, con, diciamo, attrezzata come si riusciva, una radio di fortuna, il cui compito era appunto quello di coordinare, non lo so, i movimenti, comunicare agli alleati i movimenti delle truppe tedesche, coordinare eventuali sortite e quindi fare tutte quelle operazioni che la resistenza compiva in Italia durante l'occupazione nazifascista. E la particolarità di questa radio è stata un po' quella di essere una delle poche, forse l'unica credo, a riuscire a operare nei territori fiorentini in quel periodo. E come faceva? Sostanzialmente spostava la propria sede trasmissiva da un luogo all'altro, aveva iniziato a trasmettere, mi sembra, dalle parti intorno a Via Nazionale, non mi ricordo più dove precisamente, e l'ultima volta che ha trasmesso, che coincide anche con lo smantellamento, cioè con la sortita dei tedeschi che irrompono nel luogo di trasmissione, era in Piazza d'Azeglio. E in questo senso la nostra gita dovrebbe iniziare proprio lì, in Piazza d'Azeglio, dove c'è una targa commemorativa, e quindi voi, se volete farvi giro commemorativo Radio Cora, dovreste partire da Piazza d'Azeglio e poi muovervi in auto, a piedi, in bici, in bus, come vi pare, per andare verso Firenze Nord. In particolare la nostra gita coincide in realtà con il percorso dell'autobus 2 e 28, almeno fino a un certo punto, cioè voi da Piazza d'Azeglio vi raccattate qualcosa che vi porta in stazione, vi prendete qualcosa che vi porta sulla Sestese, nello specifico quindi il 2 e il 28, oppure io vi consiglio anche il treno che lascia la stazione di Castello e scendete lì e poi procedete in direzione Collina. In direzione Collina perché? Perché questo cippo sta nel luogo dove, dopo lo smantellamento della radio, dopo l'irruzione, sono stati portati gli arrestati e fucilati. Penso che l'operazione di incursione, diciamo, in Radio Cora, che pare sia stata beccata per una soffiata, ha coinvolto il povero ingegner Morandi, che stava alla ricetrasmissione in quel momento, il quale in un impeto di reazione ha sottratto una pistola a un tedesco e ha tentato di sparargli. Non so se ci è riuscito, non me lo ricordo. Sì, l'ha ferito mortalmente. Ok, però sì. I tedeschi hanno reso bumper focaccia e anche Morandi è stato ferito mortalmente ed è morto in ospedale un paio di giorni dopo. Gli altri facenti parte di Radio Cora non hanno avuto una sorte migliore, nel senso che sono stati alcuni, o forse tutti, non lo so, però sicuramente alcuni condotti presso Villa Triste, in cui Gina dovrebbe intervenire e raccontarci che cos'è Villa Triste. Sì, Villa Triste è una, vabbè, un edificio sulla Bolognese, al numero 67, in cui sono avvenute delle sevizie atroci a discapito, insomma, di numerosi partigiani e membri della resistenza, ad opera della milizia volontaria Sicurezza Nazionale, che si costituì nel settembre del 43. E questa milizia volontaria Sicurezza Nazionale è molto più nota come Banda Carità, e diciamo si inseriva come corpo all'interno della Repubblica Sociale. Era un corpo sostanzialmente che torturava e seviziava i prigionieri per estorcere informazioni. I membri della Banda Carità erano principalmente rapinatori, evasi e autori di altri reati, insomma, e quindi era come se ci fosse una tacita amnistia tra la Repubblica Sociale e questi ceffi. Niente, all'interno di Villa Triste dei membri arrestati con l'operazione di Radio Cora, ricordiamo Anna Maria Enrique Agnoletti, ma altri, insomma, possiamo ricordare anche Fanciullacci, che venne torturato negli scantinati di questo edificio. E questo, ecco, era sostanzialmente un luogo di torture. Mi ricordo di aver letto da qualche parte, penso sul web, che Mario Carità, che era appunto il capo della Banda Carità, in realtà faceva un mestiere abbastanza assimilabile al signor ingegner Morandi, nel senso che lui riparava apparecchi radio. Quindi in realtà il signor Morandi e Mario Carità erano colleghi. Che episodio strano, cioè la vita com'è strana. Uno da una parte, uno dall'altra, uno stronzo, l'altro un pezzo di merda. Sì, erano noti per il particolare sadismo con cui compivano queste torture, insomma. Da punteruoli a colpi inferti ai genitali. Vabbè, le torture, come la fai una tortura te? Dovrei provare. Comunque, la storia è questa, e quindi, essendo una storia appunto interessante, a noi piaceva di provare a ripercorrere questo sentiero alla ricerca del cippo dedicato ai fucilati nel bosco, nel senso che parte di questi qua, dopo essere stati a Villa Triste, sono stati presi e portati nel bosco di Cercina, perché era una zona che piaceva molto ai tedeschi per le fucilazioni. Ci sono diverse altre targhe che commemorano fucilati o caduti in quel bosco. E quindi abbiamo provato a seguire le tracce da il centro di Firenze fino a inoltrarci in questo boschetto. Poi alla fine non siamo stati fortunati, in realtà. Guarda, il cippo sperduto. Sì. Non l'abbiamo mai trovato. Non l'abbiamo trovato, vi anticipiamo che non l'abbiamo trovato, cioè che noi ci siamo impegnati tantissimo. Sì. Abbiamo poi scoperto che in realtà ha scoperto Gina andando dal dentista, che in realtà si vede benissimo dalla strada. Noi invece ci siamo intortati in un percorso dall'alto valore faunistico, più o meno all'incirca, anche dal grande, cioè un trekking non impegnativo ma comunque dignitoso, e però non abbiamo trovato il cibo. Sì, ma io direi che in questo caso le colpe non siano da distribuire meglio, e mi sento di darla totalmente al CAI. Al CAI. Non so se sei un membro attivo del CAI. No, io no, la pernice bianca e rossa con me, perché la cartina la tenevo io ti ho dato più volte di smollarti la cartina sperando che almeno sbagliavi te, e invece così sembrava che sbagliavo sempre io. Però è bene che tu comunque non ce l'abbia con me, ma te la sia presa col CAI, che effettivamente comunque ci ha messo del suo, perché non si capisce niente della segnalazione. Magari poi riusciamo a mettere delle foto sul sito, ma abbiamo trovato anche cartelli bianchi. Beh, il cartello bianco quindi... comunque è esplicativo, dice tante cose, dice tutto quello che tu indicavano vorresti, nulla, oltre a non essere segnati i sentieri, cartelli di indicazione bianchi. Comunque, ora bando alle ciance, poi andiamo a mandarvi la prima registrazione di noi live dal bosco, e nulla, gustatevela. Ci metterà un po' a partire perché i nostri mezzi tecnologici non sono all'altezza della nostra bravura di speaker. Ecco. La stiamo registrando. Allora, è il 14 ottobre 2016, sono le 15.35, siamo Gine e Gino in camminata per la rubrica di Radio Wombat, la trasmissione 3000 siepi. È un po' faticosa la salita, la rubrica si chiama Gagarin, di cui ricordiamo la celebre frase "non c'è nessun dio quassù", e anche noi siamo qua a testimoniare che nella nostra prima passeggiata sopra la chiesa della Castellina, e stiamo andando verso il cippo di Radio Cora ai piedi di Monte Morello nel comune di Sesto Fiorentino, anche qui non c'è nessun dio, siamo sicuri, perché non si vede. L'hai visto te? Ho trovato gli asparagi. Però abbiamo trovato gli asparagi ci sono. Ora vi faremo anche sentire i rumori del bosco, ma non ci sono neanche quelli, a testimonianza che non c'è neanche Dio. E rieccoci tornati negli studi, non siamo più, le voci sono le stesse, quindi dovete stare molto attenti, però in realtà, anche se le voci sono le stesse, noi siamo ora nello studio e non siamo più nel bosco come eravamo prima, però siamo sempre io e lei. Era per creare questo straniamento nell'ascoltatore, forte. Ora, tosto andrei avanti con il secondo pezzettino. Nel primo avete visto che ci siamo persi, in realtà noi avevamo provato, allora non ci siamo persi subito in realtà, però abbiamo visto che eravamo ben indirizzati e andavamo fortissimo. Quello che sentirete poi dopo è come abbiamo perso la strada, penso che noi all'inizio eravamo precisi, eravamo sul sentiero 4. Eravamo sul sentiero 4, andavamo alla ricerca dell'incrocio con il sentiero 5B, per poi rincrociarsi successivamente con il sentiero 5, che ci avrebbe dovuto portare al cippo, così si vedeva dalla mappa. Comunque, a distanza di molto tempo, credo almeno 2 settimane, ricordiamo esattamente quello che avremmo dovuto fare, e quindi questa è la riprova di quanto in realtà noi fossimo precisi. Preparati. Infatti abbiamo anche beccato una giornata proprio schifosa in cui pioveva, cioè ci siamo tutta, abbiamo anche contro le intemperie, contro gli agenti naturali, noi comunque eravamo preparati e convinti di quello che volevamo fare. Ora vi facciamo sentire il pezzetto dello scarabeo. È giusto, dicevo, c'è quello dello scarabeo, no? Quello dello scarabeo non l'avevamo tagliato. Ok, allora lo scarabeo non lo conoscerete mai. C'era un pezzo dello scarabeo l'avevamo preparato. Selezionato. Allora selezioniamolo. Però deciditi, non è che possiamo prenderli in giro. Non me lo ricordavo, mi sembrava l'avessimo eliminato. Vabbè, allora non lo facciamo sentire lo scarabeo. Allora andiamo direttamente alla parte piccante. Cioè succedono delle cose in questi boschi. Succedono delle cose e non tutte noi ce le aspettavamo, va bene? Perché siamo persone ingenue. Probabilmente avremmo dovuto saperlo, ma noi siamo persone ingenue. E ora vi facciamo sentire. Ora sempre tra un po', perché i mezzi tecnologici... Macina e... via! Aggiunti in alta quota. abbiamo trovato un'autovettura. Abbiamo subito pensato ai in occasione, esatto, in una in posizione alquanto buffa, non si capisce bene come siano arrivati, abbiamo pensato a dei cacciatori di frodo, avendo trovato delle pallottole lungo il sentiero. Invece all'interno dell'auto si ravvisava una persona. Due persone. Poi abbiamo capito che erano due. Poi sentito dei gemiti e poi ci siamo allontanati, perché comunque siamo persone a modo, non è che vogliamo dare fastidio, ecco. Però potevamo registrare un po' di gemiti invece dei rumori del posto. Avremmo potuto fare la versione post porno della nostra prima gita per la trasmissione, però ha vinto l'imbarazzo. Alla fine siamo figli del cattolicesimo. Dall'altro abbiamo preso una strada a caso, figli del cattolicesimo ormai sperduti a questo punto. Siamo talmente stati imbarazzati da questa cosa che probabilmente abbiamo anche sbagliato strada e non arriveremo mai più alla lapide partigiana. In realtà nella nostra ingenuità ci stiamo avvicinando pensando che i gemiti fossero dovuti al fatto che qualcuno stesse male in macchina e pronti eravamo a soccorrerlo nella caratteristica solidarietà che contraddistingue, avviso, le persone di montagna come noi. Abbiamo realizzato che nel nostro imbarazzo abbiamo preso il sentiero sbagliato, il 5B scende, dobbiamo tornare su e prendere il 5, quindi ripassare dal luogo dell'imbarazzo. Non lo so, ci attrezzeremo, come procediamo? Un passo del leopardo, cioè strisciamo sotto la macchina, perché ora è imbarazzante tornare indietro. Sembriamo un po' dei guardoni. Sembriamo dei guardoni, sì. Vabbè. Perché ci hanno visti? Ho percepiti? Non lo so. Una prima volta che passiamo da lì. È vero, facciamo i turisti sperduti. Esponiamo gli asparagi. Io tengo la cartina in mano e facciamo la faccia dei turisti sperduti. Parla tedesco. Io parlerò giapponese. E rieccoci tornati di nuovo in studio. Allora, io parlerò giapponese, la Gine parlerà tedesco e questo è quanto ci è capitato nella ricerca del giusto sentiero. Ora, in realtà a un certo punto il sentiero giusto l'abbiamo imboccato e però non abbiamo trovato lo stesso cibo, nel senso che cammina anche per il giusto sentiero. A un certo punto siamo arrivati, che come vi testimonierà il prossimo pezzo con il quale concludo, perché ho visto che siamo andati però molto lunghi. La nostra gita in realtà avrebbe ancora un ulteriore audio. Vabbè, mandiamolo anche perché è bello. È il continuo di quello precedente, insomma, tutti vogliono sapere cosa è successo dopo. Noi tornavamo indietro come due turisti sperduti. Li volevo tenere così. E invece no. E allora saprete. E allora, per volontà della Gine, anche se così praticamente sono 50 minuti che parliamo e basta. No, 23, 25, 24. Cioè, la trasmissione più logorroica e parlata di tutte quelle che potete sentire. Volevamo tagliare. Cioè, niente musica, solo noi due che parliamo un lungo, per fortuna non è un monologo, nel senso che si fa un po' uno, un po' l'altra, però comunque sempre noi siamo, via, inviteremo degli ospiti per annoiarvi ancora di più. Via, facciamovi sentire allora al nostro ritorno. Cioè, noi dovevamo tornare, come abbiamo dichiarato, indietro a beccare il sentiero 5B e dovevamo ripassare davanti alla macchina, e questo è quanto accaduto. L'imbarazzo è stato autorisolto, la macchina non c'era più. Abbiamo così potuto appurare l'esattezza del nostro errore, esatto, e ora siamo indirizzati verso la giusta direzione per raggiungere il cippo di Radio Cora, che dovrebbe ormai essere prossimo. Siamo sul sentiero 5 in direzione Serpiolle. C'è da segnalare la difficoltà, comunque, lasciato il 5B, nel ritrovare la corretta via, soprattutto se messi in imbarazzo dal nostro perbenismo cattolico d'origine, per quanto abbiamo ormai abbandonato codesta fede e affermiamo di nuovo che non c'è nessun Dio quassù. Tant'è che la gente viene a fornicare. Esatto, luogo da fornicatori questo. E infatti noi dove siamo? Noi nel luogo dei fornicatori. In imbarazzo però. E quindi niente, ora procediamo tosto verso il cippo di Radio Cora. Ok, ora sapete tutta la verità. Noi qui in questa fase ancora ci illudevamo che l'avremmo trovato il cippo. In realtà dopo ancora un'ora di camminata non c'era niente. Eravamo molto contenti per aver superato il nostro imbarazzo, perché la verità è che sbagliando strada la prima volta abbiamo detto vabbè, ormai proseguiamo sulla strada sbagliata, perché che facciamo? Mica si può tornare indietro. Poi abbiamo detto no, basta con questo imbarazzo piccolo borghese, cioè comunque siamo persone emancipate che hanno fatto anche dei percorsi politici che ci dovrebbero portare comunque a relazionarci in maniera come dire sana e tranquilla, no? con queste forme d'amore. E quindi abbiamo detto coraggio, però avevamo già il piano, no? C'avevamo il piano di mettere, io parlavo giapponese, lei tedesco. In realtà è vero che siamo passati dietro la cartina, questo è abbastanza comico, poi la macchina non c'era, ma io e lui siamo passati schermati. Potevi non dirla, non dirla. Non lo dico più. No, vabbè sì, facciamo schifo. E ora vi raccontiamo comunque l'amarezza conclusiva di quando abbiamo deciso di desistere dalla ricerca del cibo. Cioè proprio abbiamo abbandonato, cioè è stato un duro colpo. Nella registrazione diciamo anche che ci riproveremo, in realtà non so se avremo mai la forza interiore per riprovarci, però chissà, forse se ci accompagnate tutti, ora vedremo. Lungo la salita che dovrebbe portarci finalmente al cippo di Radio Cora, presi ormai dallo sconforto, la Gina ha ricevuto una chiamata dal suo dentista, ma su una deviazione improbabile abbiamo rinvenuto lo scheletro di un piccolo animale appuntato su un albero. Abbiamo deciso che era il nostro animale guida che ci dava un segno, abbiamo per questo deciso di continuare a salire alla ricerca del cippo di Radio Cora, che comunque è segnalato veramente male. Sicuramente ci sarà lo zampino della mano fascista che è intervenuta a cambiare i sentieri, le indicazioni per i sentieri, perché è impossibile riuscire a rinvenire questa lapide sperduta nei boschi di Cercina. Finora abbiamo trovato una pista da cross. Sto registrando, sì. Lo scheletro di un animaletto. Poi abbiamo mangiato i corbezzoli. Poi abbiamo incontrato una macchina di signori che praticavano qualche forma di amore lungo la via. Missionaria forse, non sappiamo. Non sappiamo perché non abbiamo guardato. La Gina ha guardato. Io non ammetterò mai di aver guardato, va bene? Pensavo fosse in difficoltà. Sentivo dei gemiti. Ha tentato di giustificarsi. Ma dove siamo? Ma che ne so. Ha chiamato il dentista. Ti anticipavo l'appuntamento. E allora desistiamo. A questo punto desistiamo. Cioè eravamo a un passo probabilmente dal ritrovamento del cippo, ma il dentista della Gine ci induce al rientro. Ce ne andiamo. Non solo, così avremo una nuova puntata sempre sullo stesso argomento e magari questa volta riusciremo a vedere il cippo. Comunque confermiamo che anche qui non c'è nessun dio e infatti nessun cippo. E nessun cippo, ecco. Ma dei resti animali, bellissime piante. Sarebbe da fare un'escursione in primavera perché è pieno di pungitopo da cui prendere i turioni e asparagine per gli asparagi. E niente, probabilmente anche funghi, ma noi funghi non li abbiamo trovati però, eh. Velenosi, velenosi sì. E quindi si conclude qui la nostra gita, con la nostra prima gita che si è conclusa come era prevedibile in un clamoroso insuccesso. E, ma non per questo noi desistiamo, perché noi siamo quelli che perdono sempre ma vanno avanti uguale. E rieccoci tornati di nuovo negli studi. E insomma, avete sentito, e la gita si è conclusa come si è conclusa. Ora io non starei a rivangare più di tanto, e stendiamo un velo pietoso. E noi però ci siamo però impegnati. Però voci di corridoio mi hanno informata che quel bosco, specialmente durante la notte, sia molto popolato. E quindi il nostro incontro solitario di due persone in una macchina. Ah, se vai di notte c'è più di più, insomma? Sì, è pieno. Ah, ma anche fuori dalle macchine. E perché noi siamo andati lì? E quindi mi hanno consigliato una gita di gruppo in caso volessimo tornare. E così gruppo. Sarebbe un altro tipo di studio, ecco, probabilmente. Dici, cioè, nel senso che noi riusciamo a imbarazzarci per una sola macchina che vediamo un attimino di giorno, abbiamo fatto tutto sto cinema, che andiamo di notte, cosa succede? Cioè, io non so se ne esco vivo da questa volta a scuola dei salesiani, eh? Cioè non mica, cioè ho delle turbe, delle cose da scontare ancora. Probabilmente è un percorso pedagogico per l'avviamento al vivere con naturalezza. No, Non lo so. No, non verrà con noi, non verrà con noi. Un pezzo di musica che non sente sì, più. Sì, poi io volevo dire un'altra cosa. Ma la vuoi dire prima poi o sto dopo zitto. Il pezzo di musica? La dico ora. Vabbè, dilla. Perché sennò poi me ne dimentico. Abbiamo solcato la mezz'ora di parlato, vai. Sì, va bene così. Volevo dire che sono andata dal dentista dopo la gita e ho levato un dente che ho con me e quindi metteremo su anche delle immagini del dente. Per cosa interessante certificare. Comunque tienici informati sulla tua salute, è importante anche la nostra trasmissione, anche quello ci starà. Potremmo metterlo in palio. Ma io lo metterei in palio. Feticista. È un bel dente, era anche sano. Eccoci qua, dopo mezz'ora ininterrotta di parlato, abbiamo messo ben due pezzi perché avevamo bisogno di riprendere fiato e siamo ancora qui con 3000 siepi. Abbiamo fatto la nostra rubrichetta che è diventata una rubrica, cioè una roba esagerata, 34 minuti di parlato, abbiate pazienza, cioè scusateci, siamo logorroici, non so come mai, però cioè, ci è venuta così, spero a meno che non siamo noiosi. E ora invece vogliamo fare una cosa pam pam pam pam pam pam, cioè tutta parlato musica ma radio proprio veloce, moderna, tipo Linus Radio DJ, cioè tipo Zoo di 105, una roba... Dice così perché mi ha appena minacciato di non puoi mica raccontare tutta la tua vita in radio, e quindi... Questo è un avvertimento a me. A raccontare un pomeriggio ci abbiamo messo mezz'ora, cioè tutta la vita della Gine con tutte quelle che ne ha viste, ne ha passate. Cioè potremmo stare qua, capito, 40 anni. Delle cose belle. Allora, inizi te con la rubrichetta, questa deve essere proprio rubrichetta però. Bene, va bene. Con la rubrichetta Playlist for Runners. Consigli per la corsa, anche se io sono contrario a correre con le cuffie, mentre la Gine invece è una fan. Prego, primo pezzo. Ecco, bene, io inizio con un pezzo e anzi entrambi i pezzi che voglio suggerire li faccio con dedica. Il primo pezzo lo dedico al Dama ed è un pezzo che ho sentito in macchina sua tornando da degli incontri di pugilato a Bologna e io guidavo perché chi era con me non era in grado e alla radio lui, alla radio Gino mi guarda molto male, c'era anche lui però non se lo ricorda come nessuno, non ci sono mai stati quegli incontri e niente, è un pezzo secondo me molto bello, è anche abbastanza lungo e lo consiglio durante una corsa abbastanza veloce in pianura, quando insomma avete rotto un attimo il fiato, i muscoli e state andando felicemente verso l'ignoto, e questo pezzo è per quel momento. Ah, trattasi di Hercules and Love Affair feat. Anthony Hegarty. Il pezzo si intitola Blind. Feeling. E rieccoci qua, sempre Bomba Atreio, sempre 3000 siepi. E la prossima canzoncina che mettiamo per i nostri amici runners a cui piace correre, questa è la nostra rubrichetta Playlist for Runners. A sto giro la scelgo io, no la Gine, ed è un pezzo quindi molto corto, perché su era lunghissimo. Invece il mio è corto corto, e tutta la musica che vi propongo io fa parte di una categoria musicale sottogenere inesistente, però pubblicizzato al mondo come Northern Soul, che è un soul inesistente, era sostanzialmente quello che si ballavano nel nord dell'Inghilterra tra gli anni 60 e per tutto buoni gli anni 70, prima che arrivasse la disco music. Ed è musica essenzialmente che parla di gente o che balla, oppure gente che amoreggia, oppure di argomenti frivoli in generale. Nonostante ciò, era una musica che sostanzialmente è stata la colonna sonora di tutto il proletariato inglese di quei luoghi per quasi 20 anni. E quindi ora vi propongo un pezzo soltanto strumentale che si chiama Tumble Ride di Earl Wright and His Orchestra, e secondo me lo dovete ascoltare quando correte in salita, proprio perché io vi voglio spingere a correre in salita. Vi sia piaciuto il pezzo, abbiamo fatto una buona salita, ora procediamo tosto con il prossimo che annuncerà la Gine. Sì, allora velocemente, senza raccontare tutta la mia vita, però io volevo dedicare questo pezzo a un nostro amico della svolta, e in realtà vabbè, insomma, la storia è questa. Quest'estate io sono partita per un lungo viaggio nei Paesi Baschi in bicicletta, ma il giorno prima di partire, correndo, sono malamente caduta e mi sono aperta il ginocchio. Che novità, non ti fai mai male. Non mi faccio mai male, me lo sono aperto e anche rotto a quanto pare, ma questo l'ho scoperto dopo. e niente, era una bellissima corsa e sono tornata veramente incazzata. Avevo nell'MP3 l'MP3 carico di musica ska e reggae gentilmente messa da questo nostro amico e quindi niente, gli dedico questo pezzo che è La Paloma di Laura Lyken. Allora, nella prossima puntata avremo anche la nostra prima rubrica dal titolo, cioè la prima volta della nostra rubrica dal titolo Fratture, in cui vi racconteremo appunto tutti i nostri malanni e sfighe, ma per ora Lauren Atkin. Paloma, una paloma. Paloma. E siamo arrivati così all'ultimo brano che consiglio io. Questo pezzo è per lo stretching. No, così. Quello che consiglio io. No, il mio era, non avevo prima. Detto è che siccome porta merda ho deciso ska, fatelo durante, ascoltatelo durante lo stretching, sì, assolutamente. Quindi se cadete, cadete da fermi. Sì, esatto. Che è come ci si fa più male. Allora anche io vi consiglio un pezzo per lo stretching, però un po' attivo, Groovinet e Gogo di The Four Lads, sempre Northern Soul, e quindi buon ascolto. Eccoci di nuovo qua, abbiamo terminato la nostra playlist for runners. Confesso che in realtà questa sera noi siamo stanchi perché ci siamo allenati prima, non accadrà più, è l'ultima volta che lo facciamo, lo giuro, e non farebbe neanche parte del nostro percorso terapeutico da dipendenti in endorfine, cioè questa cosa non l'avremmo dovuta fare, però lo confessiamo pubblicamente, speriamo che insomma ci possiate comprendere e perdonare. E quindi niente, vorremmo chiudere la trasmissione per andare a dormire in realtà, e chiudiamo con un pezzo selezionato appositamente da Gine in versione un po' hip hop, un po' hardcore Washington, e prego Gine. È un pezzo dei Bugazzi che sostanzialmente è un progetto di due DJ newyorkesi che mescolano insieme le basi e il cantato dei Fugazzi, quindi hardcore, e dei Wu-Tang Clan, e quindi hip hop. Io trovo che sia un lavoro molto ben riuscito.